Friuli nel mondo, 139esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane. Queste canzoni friulane moderne, composte ed interpretate da giovani musicisti, parolieri e cantanti nostrani, il sentimento dell'amore e della nostalgia viene espresso con toni così accorati e semplici da farvi scorgere in esse, cari amici radioascoltatori, un modesto scorcio del Friuli canoro di oggi. Di Bruno Degano e Beppino Lodolo ascoltate Sere di Lune, cantata da Beppino Lodolo. Parfanasse l'amor da stella lune, ogni storia d'amor ancor te une, o d'essere a clar di lune tu mi has di tesoro mio. Va pal mondo a fa fortune, e pal mondo sei là, ma da sere a clar di lune, io di banti a ispietar, tu da sé tu meninine, mi astuzza di smentea. Tu sei svizzine, sinti al cura sgrisolà, la tua voz mi rasserene, lui non va a parte il mio cuore, è splendato in cella lune, pierri di allestri grisolà, la tua voz mi rasserene, lui non va a parte il mio cuore, è splendato in cella lune, vi è ridint al nostro amore, al clar di lune, tesoro mio, Nostalgie di Udin, di Sandro Cimiotti, è interpretata da Bruno Marmai, che ne ha redatto il testo. La nostra cittadina, poi adesso di un clan, gli ebbie le piscinine, la patria di duci furla e la sozzoventù e ciante plan plan. Udin tu se slatiare dal nestricù, udin tu se regine dal topriù. Quanche lontan o sarin vie palmo, il to riqua sempre al sarà profond. Se biel cis ciela udin, se gioventù, come te ne strettiare in nessun passione, le tiare benedette di sos canzon. Mi ha detto la me mamute, se tu la ras lontan, pensi alla doccia azute, a Udin e a Duci furla. Tu cantaras beso o in coro plan plan. Maria di Leno canta Serenade Anine, musicata da Bruno Degano su versi di Elda Vogrige. Yeah. E infine ascoltate la canzone Torne con me di Sandro Cimiotti, su testo di Lucia Scozziero. Canta Galdino Turco. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari. Ha suonato il complesso tipico friulano diretto da Bruno Degano.